C'ha dei sensi, c'ha mi turbi, c'ha che ridi, mamma mia che guanti, lentamente muovi, le onde del mio mare, fiori della tua carne, profumano di sole, ma dai ma che ci frega, tu sei il mio filotto, ballano i tuoi piedi, sopra il mio petto, vedo le tue gambe, toccare quasi il tetto, le tue calze sfili con grazia, ma poi ti crolla il mondo. Più che uno striptease, è proprio un film comico. Tu la mia pantera, graffiami la schiena nella penombra incandescente, al lume di candela, ci stiamo sbudellando. Amore, questa sera. Dai che provo io a fare il mastroianni. Mannaggia, si è bloccata la braghetta dei miei sogni. Prendimi le forbici che taglio questa scena, che uno strip coi pantaloni è come un bagno senza schiuma. Lentamente muovi, che altrimenti mi fai male, si è proprio ingarbugliata tra la pelle, che dolore, ma dai, ma che ci frega, mangiamoci un panino, al diavolo lo strip e tutto il suo casino. Più che uno striptease è proprio un film comico, tu la mia pantera, graffiami la schiena nella penombra incandescente, al lume di candela, ci stiamo smudellando, amore, questa sera. Cia dei sensi, cia mi turbi, cia che arrivi, mamma mia che guanti, lentamente muovi le onde del mio mare, fiori della tua carne, profumano di sole, ma dai ma che ci frega, tu sei il mio filotto, ballano i tuoi piedi, sopra il mio petto, vedo le tue gambe, toccare quasi il tetto, le tue calze sfili con grazia, ma poi ti crolla il mondo, più che uno striptease, è proprio un film comico, tu la mia pantera, graffiami la schiena nella penombra incandescente, al lume di candela, ci stiamo sbudellando come non mai questa sera.